acqua meno, mare arena, o mare arena. L'acqua meno, o mare arena, o mare arena. Addo l'amore ci sta, addo l'amore ci sta. L'acqua meno, mare arena, o mare arena. Cielo e fuoco, mare d'oro, mare antico. E sto aspettando a te, e sto aspettando a te. Una roccia sembra illantata, è più liscia d'acqua da sé, non è che arriva con una masciata, è da presente tu. Raggi verde, cama tiene, e t'entra tiene annanza a me. All'acqua meno è, a stritta te. Facimmo amore. La montagna che si è arrennuta, un motivo si è allontanato, è tua presente.